amanti sì, è un'emozione nuova e non si spegne mai, e tu sei qui, ed ogni incontro poi diventa il primo e l'ultimo. Amanti sì, per quanti giorni la mia donna tu sarai. Questa magia fatta di attimi che rotolano via. Fermati qui, con te la vita è bella e sempre in sintonia. Compagna mia, noi prigionieri sì, ma in piena libertà. Se riderai, se piangerai, la vita è questa qua. Con te vivrò momenti che sanno di eternità. È un gioco di complicità, protagonisti noi. Amanti sì, amanti sì, come in un film. Piangerai, la vita è questa qua. Con te vivrò momenti che sanno di eternità. È un gioco di complicità, protagonisti noi. Amanti sì, come in un film.